gola fra gli scogli dell'anfratto, lucida le sue rive il sasso frasso, gioca con la sabbia fra le dita dei bambini, ossigena le polle dei girini, ti parla mentre passa di sentieri di montagna, quasi che venisse dalla cuccagna. Ma il gioco di colori della vecchia tintoria, che sciacqua le coscienze, anche la mia, si mescola ai liquami della fogna di Montese, insieme a quelli del macello del paese. È già un po' meno pura l'acqua che va giù in pianura, il corso della schiuma non è chiaro. Se ti senti niente quando ti pensi vuoto, prigioniero dei ricordi a poco, forse il tuo rifiuto di entrare nella strada che ti ha fatto perdere la squadra. Ricordo di lezioni fatte al tocco di campana da ragazzi in una pieve di montagna. Forse aiuta il lungo corso a ritrovar se stesso, a decantare la fanga del progresso. Non la si può bere, però puoi farci il bagno, il volto di quest'acqua è ancora umano. Muovi i tuoi ricordi come i sogni che hai già fatto, mentre la ceramica si beve il sassofrasso e il ruscello che cantava puro dentro al suo bacile sputa piombo, arsenico e metile. Il cambio di canzoni più non suona la campana, quest'acqua adesso è malsana. Se ti senti niente quando ti pensi vuoto, prigioniero dei ricordi a poco, forse il tuo rifiuto di entrare nella strada e ti ha fatto perdere la squadra. Saltellando contro il masso, ancora sente ancora il sasso frasso. Ma se sei privo di ogni squadra, allora prendi la strada che ti porta in alto, magari su in contrada. Il fango dell'inverno copre i segni dei gerani, ieri impegna l'oggi nel domani. Importante è la persona che trasforma dentro al tempo la sua zona. Il fango dell'inverno copre i segni dei gerani, ieri impegna l'oggi nel domani.